sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, mi vogliono eliminare politicamente e fisicamente, rilancia Letta alla presidenza della Repubblica. I giovani e gli immigrati, secondo una ricerca presentata alla Camera, è xenofobo, chiuso agli stranieri il 45% dei ragazzi. Blocco delle auto per tutto il nord, scetticismo da alcuni sindaci alla proposta di Milano e Torino, domani la decisione. Quarta medaglia Vancouver per l'Italia, bronzo per la Fontana, nei 500 metri short track per il calcio, stasera in campo Roma e Juve in Europa League. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci racconta cosa ha detto la nostra Elisabetta Fiorito in diretta da Montecitorio. Elisabetta. Sì, Silvio Berlusconi torna alla teoria del complotto, vogliono farmi fuori politicamente e fisicamente, spiega in una cena con i senatori PDL a Palazzo Grazioli. Il Premier teme anche per la propria sicurezza, mi dicono che non devo andare in giro, che non devo fare campagna elettorale, che c'è ancora chi mi aspetta all'angolo per farmi fuori. Già nel 94 hanno cercato di farmi fuori con le indagini giudiziarie e con gli avvisi di garanzia. Poi hanno cercato di rovinare le aziende di famiglia, ma anche in questo non sono riusciti. Da allora cercano di farmi fuori fisicamente, non è cambiato nulla. Berlusconi quindi torna ad accusare la magistratura, soprattutto i membri togati del CSM. Definisce pazzesca la vicenda del lodo Mondadori, lamentandosi della sentenza che lo costringe a dare 750 milioni di euro a Carlo De Benedetti. Per il Premier è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e riformare la giustizia, è arrivato il momento di procedere spediti. La cena finisce con la solita stornellata di Apicella e una new entry, la cantante Nena, che il Premier aveva proposto per Sanremo, dice, ma ammette la canzone è stata bocciata. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Una vicenda politica che si intreccia in queste ore con quella giudiziaria, il riferimento è naturalmente alle inchieste sulla protezione civile che sembrano sfiorare, stando ad alcuni quotidiani, lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Dalle intercettazioni, oltre alle ciniche risate post-terremoto, emergono a questo punto dei dubbi sugli appalti anche all'Aquila. Il sottosegretario Gianni Letta si è affrettato a dire che chi ha riso quel giorno non ha avuto un euro di lavoro, ma i contatti trascritti dai carabinieri del ROS aprono un altro scenario che suona come una smentita. Il consorzio di imprese Federico II, di cui fa parte anche la BTP di Riccardo Fusi, imprenditore in strettissimi contatti con il coordinatore PDL Denis Verdini, ottiene appalti fra i 10 e i 12 milioni di euro. Verdini, lo ricordiamo, è indagato per corruzione. La procura dell'Aquila chiede le carte ai colleghi di Firenze, alcuni nomi, dice a Radio 24 il procuratore del capoluogo abruzzese Alfredo Rossini, li stiamo seguendo da tempo. Quanto alle dichiarazioni di Letta, aggiunge. I politici giustamente hanno delle finalità relative alla loro situazione anche elettorale, non so, eccetera, per il governo del paese come compete in base alla Costituzione. Noi facciamo un altro lavoro, il lavoro di accertare se ci sono dei reati e se ci sono dei fatti socialmente quindi dannosi e pericolosi e cerchiamo di porre riparo. Il nome del sottosegretario Letta compare poi in diverse intercettazioni dei carabinieri, nessun rilievo penale, ma sarebbe stato decisivo il suo ruolo per l'attività edilizia della protezione civile. Stefano Totoro, GR24, il sole 24 ore. Il decreto sulla protezione civile intanto procede alla Camera, c'è una novità dell'ultima ora della quale chiediamo conto alla nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Dopo vari ripensamenti e colpi di scena, alla fine la decisione del governo dovrebbe essere quella di non porre la fiducia sul provvedimento che riguarda la protezione civile. Ce l'è stato pochi minuti fa il vicepresidente dei deputati del PDL Italo Bocchino in transatlantico, dopo una riunione maggioranza-governo alla Camera, a cui è seguito un confronto con il presidente della Camera Fini. Oggi pomeriggio in aula dunque si dovrebbero votare gli emendamenti, mentre il voto finale dovrebbe essere domani alle 13. La decisione è nata dalla disponibilità della maggioranza ad apportare alcune modifiche gradite all'opposizione, che manterrebbe sì il suo giudizio negativo sul provvedimento, ma cesserebbe ogni forma di ostruzionismo ritirando gran parte dei suoi emendamenti. In particolare l'opposizione avrebbe ottenuto la soppressione della parte relativa allo scudo giudiziario per i commissari straordinari in campagna. E in questi minuti è riunita nuovamente la conferenza dei capigruppo, che dovrebbe a questo punto ratificare l'intesa preannunciata da Bocchino per l'approvazione, lo ricordiamo, senza voto di fiducia del provvedimento. Da Montecitorio è tutta, buona linea. E grazie Alessandra Schepisi. Sempre sul fronte della cronaca parlamentare, c'è stata una marcia indietro della commissione antimafia sul protocollo predisposto dal presidente Beppe Pisanu per garantire candidature pulite alle elezioni. Il testo originario prevedeva un potere di filtro vincolante della commissione sulle liste ed è stato praticamente svuotato, togliendo ogni potere di intervento all'antimafia. La scorsa settimana era stato il capogruppo del PDL in commissione, Antonino Caruso, a definire il protocollo Pisanu un trattatello ipertrofico e paragiuridico e a sollecitare un suo snellimento. Abbiamo parlato a lungo ieri di corruzione con la relazione annuale della Corte dei Conti. Oggi si è scoperto un nuovo caso nel Varesotto. Per far rientrare i propri capitali dalla vicina Svizzera aveva scelto di avvalersi dello scudo fiscale, ma i 10.000 euro che il commercialista gli aveva chiesto insieme alla documentazione dei conti correnti esteri non servivano a sanare la posizione, ma erano solo la prima parte di una mazzetta destinata a due funzionari dell'Agenzia delle Entrate che si erano resi disponibili a bloccare ogni accertamento prima del rientro dei soldi. Una tangente che un imprenditore del Varesotto, titolare di una ditta di installazione di impianti elettrici, ha scoperto quando i funzionari hanno chiesto altri 50.000 euro. Lui ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che hanno seguito il commercialista e ripreso in un filmato il momento in cui venivano consegnati 15.000 euro, la seconda tranche della mazzetta. Per i due funzionari sono scattate le manette con l'accusa di concussione. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, ha accertato che la vicenda era iniziata ben prima della finestra dello scudo fiscale. Nel 2007 l'imprenditore era stato bloccato in frontiera con documenti che ne attestavano il possesso di conti correnti presso una banca svizzera, di cui il suo timore di un accertamento che era convinto di aver evitato con lo scudo fiscale. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di scudo fiscale, i dati di ieri diffusi dalla Banca d'Italia parlano di 60 miliardi di euro in uscita dalla Svizzera, ma nella Confederazione Elvetica si esprime soddisfazione. Quasi un sospiro di sollievo. In Svizzera la reazione ai dati di Banca Italia sullo scudo fiscale è quasi agli antipodi rispetto a quella prevalente nel quadro italiano. Lo scudo non fa troppo male, in Italia meno miliardi del previsto. Questo il tenore ricorrente dei titoli nei quotidiani elvetici. Le attese delle banche rossocrociate in effetti erano su un movimento di capitali verso l'Italia ancora maggiore. I 60 miliardi di euro di patrimoni italiani riemersi, si fa notare qui, sono una cifra consistente, certo, ma inferiore alle proiezioni che in Italia si erano diffuse nei mesi scorsi. Inoltre sulla piazza elvetica si sottolineano altri due elementi: la rilevanza dei rimpatri giuridici, cioè di quella parte di beni scudati che però rimangono in gestione in Svizzera, poi il fatto che una parte dei rimpatri fisici in Italia è andato a filiali italiane di banche svizzere. Aggiungendo questi due elementi il bilancio è diverso, dicono molte fonti bancarie elvetiche. Del resto le tre banche maggiori, cioè UBS, Credit Suisse, Julius Baer, avevano già reso noti nei giorni scorsi che a fine 2009 oltre il 60% dei capitali scudati era stato trattenuto nelle rispettive strutture con rimpatri giuridici o con le filiali italiane. Certo, lo scudo non è stato comunque una buona notizia, ma a Zurigo, Ginevra, soprattutto in Ticino, si temeva nei mesi scorsi un impatto più rilevante. Lino Terlizzi, GR24, Il Sole 24 Ore, Lugano. Maxi attacco degli hacker contro una serie di aziende. Sentiamo Luca Tremolada. Il 5 febbraio un report del Dipartimento di Stato americano aveva lanciato l'allarme: mettete in sicurezza i vostri sistemi, ma l'avvertimento è arrivato tardi. Due anni fa è stato orchestrato e portato a termine un attacco informatico di vasta portata, violati 75.000 tra computer e server di circa 2.500 aziende in 196 paesi. Lo ha scoperto il 26 gennaio scorso Alex Koch, un ingegnere di NetWitness, società di consulenza del governo americano. La tecnica dell'attacco ricalca le strategie adottate finora per rubare numeri di carte di credito, dati sensibili e informazioni alle aziende. L'esperto di NetWitness avrebbe individuato il software che ha violato le difese informatiche. Si tratterebbe di Zeus, un programma ben noto agli esperti di sicurezza. Eppure, le dimensioni dell'infezione non convincono le autorità che stanno indagando. Tra le aziende colpite, i giganti farmaceutici Merck & Co. e Cardinal Health e la Paramount Picture. Secondo il Wall Street Journal sarebbero state colpite anche agenzie governative, che però hanno dichiarato di non aver contenuto l'infezione. Abbiamo parlato di nuovi media, parliamo di vecchi media, ossia la televisione, che trova una delle sue massime celebrazioni italiane naturalmente nel Festival di Sanremo. Anche ieri gli ascolti sono andati bene. L'inviata. Sono stati 10.164.000 con uno share del 43,87% i telespettatori che hanno seguito su Rai 1 la seconda serata del 60° Festival di Sanremo. Il picco di ascolto alle 21.46, oltre 14 milioni di telespettatori. Non c'è stata quindi la caduta di audience in parte fisiologica dal primo al secondo giorno di festival. I dati superano quelli della seconda serata dell'edizione 2009. Ma qual è la ragione di questo successo? Lo abbiamo chiesto a Erika Brenna, critico ed esperto della trasmissione TV Talk. Innanzitutto bisogna dire una cosa, non c'è controprogrammazione. Pensiamo, la partenza del festival non ha avuto contro Zelig. Comunque su Rai 1 si trova Antonella Clerici che ha riportato il festival al Nazional Popolare, molto premiata dalle donne, gli uomini se ne sono un pochino andati. Secondo me dal punto di vista musicale invece c'è un'attenzione maggiore per quelli che sono cantanti che piacciono al pubblico più giovane, infatti c'è una fascia più alta di ventenni, cosa che il Festival di Sanremo non aveva mai catturato. Soddisfatta la Rai, il direttore di Rai 1 Mauro Mazza dice è un festival che convince, la musica è apprezzata, la Clerici sempre più splendida padrona di casa. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Sanremo. Parliamo di cultura adesso, ve l'abbiamo già accennato nei giorni scorsi, il 2010 sarà un anno all'insegna del Caravaggio e anche Roma celebrerà i 400 anni dalla morte di Michelangelo Merisi. Oggi inaugura le scuderie del Quirinale una mostra dedicata interamente ed esclusivamente all'artista intitolata Caravaggio, rimarrà aperta fino al 13 giugno. Il soprintendente al Polo Museale Romano Claudio Strinati, intervistato da Adriana Fracchia. I quadri sono una ventina e sono stati scelti da ogni periodo dell'attività, quindi è rappresentata tutta la carriera di questo pittore, da quando comincia le prime opere fino praticamente quasi all'ultima. Quindi l'idea è quella di dare un'immagine molto sintetica, però precisa, di quello che ha fatto, lo stile e la... insomma i vari argomenti che ha trattato e appunto i vari periodi della vita, perché in pratica questo ci ha avuto una carriera brevissima perché è morto a 39 anni, quindi sono in realtà pochi anni di carriera. Tra l'altro ha cominciato stranamente relativamente tardi rispetto agli standard dell'epoca, insomma, cominciavano di solito giovanissimi, invece poi lui in realtà è uno che ha cominciato almeno quello che noi conosciamo, aveva già più di 20 anni di età, che non era pochissimo per l'epoca, quindi è una carriera che dura una ventina d'anni, dai suoi 20-21 anni a 39 anni, e le opere raccolte coprono tutto questo periodo. Le 13:18 minuti 8 secondi nella prima parte del giornale radio abbiamo riferito delle parole di Silvio Berlusconi che dice mi vogliono eliminare politicamente e fisicamente del suo rilancio di Letta alla presidenza della Repubblica. Siamo tornati ad aggiornarvi sulla protezione civile, tanto sulle inchieste quanto sul decreto che continua ad avanzare alla Camera dei Deputati. Abbiamo parlato di corruzione con delle tangenti, con un sistema di tangenti scoperto a Varese, abbiamo parlato di scudo fiscale e di Sanremo. Adesso ci occupiamo di razzismo. Proprio pochi istanti fa l'Istat ha diffuso i dati sull'immigrazione in Italia. In aumento al 1 gennaio di quest'anno hanno raggiunto quota 4.279.000, in crescita di 388.000 unità rispetto al 1 gennaio del 2009. Ma diverso è il discorso dell'accettazione da parte degli italiani e soprattutto dei giovani degli stranieri. È stato presentato un rapporto in merito questa mattina alla Camera. La presentazione del rapporto è stata seguita dalla nostra Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Torna sul tema dell'immigrazione anche il presidente della Camera Gianfranco Fini. Lo fa, come dicevate, alla presentazione a Montecitorio di una ricerca sui giovani e il razzismo. Uno studio da cui emerge che se il 45% dei ragazzi tende ad adottare un atteggiamento xenofobo, ciò si deve a due ragioni: ignoranza e paura. Per il presidente della Camera, allora, l'integrazione è una questione che non si può liquidare come uno dei tanti problemi della società, ma, dice, è la sfida culturale più importante dei prossimi 20 anni. Tornando sui fatti di Milano, Fini spiega che non basta dare una casa e un lavoro a chi arriva in Italia e si chiede invece cos'altro serva per realizzare l'integrazione nel nostro paese. Sentiamo. È, come io credo, la riduzione dei termini temporali per diventare cittadini, è la possibilità di rendere colui che domani sarà cittadino più attivo nella partecipazione civile, democratica, attraverso il voto alle amministrative. Se discutiamo di queste questioni deponendo la scimitarra della propaganda. E io credo che se lo facciamo, facciamo non solo l'interesse della società italiana, ma facciamo l'interesse della politica. Fini sottolinea poi che se la crisi economica pesa sulle paure dei giovani, soprattutto riguardo l'occupazione, di conseguenza influisce anche sulla diffidenza verso gli immigrati ed è un dato confermato dalla ricerca. Tuttavia il Presidente della Camera ricorda che senza il lavoro degli stranieri non si pagherebbero le pensioni dei nonni di chi oggi è un ragazzo e aggiunge come dato positivo però che molti giovani ne sono coscienti. Le responsabilità sono dunque della politica, dice Fini, della scuola, ma anche dei media, ai quali rivolge un appello. Basta con i titoli che colpiscono una singola etnia. Il riferimento alla comunità Rom, che secondo lo studio presentato oggi risulta ancora quella più temuta dai giovani italiani. E da Roma è tutto, linea a voi. E grazie dunque a Maria Chiara Grandis. I sindaci di Milano e Torino vogliono proporre a tutti i colleghi della pianura padana di fermare le auto per domenica 28 febbraio come misura comune per ridurre i livelli di inquinamento. Tutti a piedi in pianura padana domenica 28 febbraio, o almeno è questo che vorrebbero i primi cittadini di Milano, Letizia Moratti, e di Torino, Sergio Chiamparino, che domani incontreranno i colleghi di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per redigere assieme un protocollo di azioni condivise contro l'inquinamento. Brescia, con Monza, è la maglia nera per record di giorni di smog, il sindaco Adriano Paroli. Non ho capito appunto se è un blocco nelle città o se è un blocco di tutto il nord, cioè, il tema fondamentale anche diventa purtroppo l'inquinamento che arriva dalle autostrade e dalle varie tangenziali. Massimo Giordano, sindaco di Novara. Sono personalmente convinto che non siano misure così efficaci, però voglio dire, se ti aiutano anche a sensibilizzare sul tema può andar bene. L'Unione Europea fissa in 35 il limite da non superare di giorni all'anno con concentrazioni di polveri sottili superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Milano e Padova hanno toccato questo limite martedì, Brescia e Monza addirittura il giorno prima e siamo solo a febbraio. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo al nord ma ci spostiamo in Val di Susa, dove ieri ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, manifestanti contro la TAV. Naturalmente ci racconta tutto in diretta il nostro Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno. Migliorano le condizioni di Simone, il giovane rimasto ferito ieri sera in Valle di Susa negli incidenti tra TAV e forze dell'ordine. Ieri era stato ricoverato all'ospedale di Susa, poi trasferito d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino. Questa mattina è stato sottoposto a una nuova TAC per valutare le condizioni dell'ematoma cerebrale. Ecco, l'ematoma si è ridotto, la prognosi è stata sciolta, una prognosi di 30-40 giorni, potrebbe anche essere dimesso nelle prossime 48 ore. Di sicuro l'ematoma si è ridotto al punto che non debba essere operabile. Potrebbero invece essere un po' più gravi del previsto le condizioni della donna di 47 anni, l'altra manifestante ferita nei tafferugli di ieri. La prognosi indica ferite al volto, ematomi sul resto del corpo. Siamo in attesa di altre notizie da fonti sanitarie. Il fronte delle proteste intanto non si ferma. Nella notte un gruppetto di militanti ha cercato di bloccare l'uscita dei camion di distribuzione del quotidiano La Stampa. È intervenuta la polizia. Sempre nella notte in Val di Susa blocchi sulle statali 24, 25 e sull'autostrada 32. In mattinata c'è stata una piccola manifestazione dei NoTav di fronte alla sede RAI di Torino. Per domani ne è stata indetta una importante, imponente a Susa. Su quanto è avvenuto ieri e scontro, la polizia ha riferito che i manifestanti hanno lanciato contro le forze dell'ordine pietre e bastoni insieme a palloncini d'acqua e di neve, provocando prima una risposta con il lancio di lacrimogeni, quindi con delle cariche. Ma sentiamo il leader storico della protesta NoTav, Alberto Perino, che ha detto che non è vero. Sentiamo. La polizia continua a dire delle falsità. Sono tre giorni che la polizia dice delle falsità. Nel posto dove siamo non c'è neanche delle pietre. Hanno tirato delle palle di neve, va bene? E queste sono delle falsità immonde. E ieri c'è un poliziotto che ci ha rotto una gamba perché è caduto da solo. E questi adesso diranno anche che gli hanno rotto le gambe. Questo dunque il quadro e grazie per questi aggiornamenti a Paolo Piacenza. Andiamo all'estero adesso. Il Dalai Lama è arrivato a Washington nella tarda serata di ieri, le prime luci dell'alba in Italia. Il leader spirituale ha incontrato i rappresentanti della comunità tibetana statunitense. Oggi è previsto l'incontro con il presidente Barack Obama nella West Wing, l'ala politica della Casa Bianca, ma non nello studio ovale. Sentiamo l'analisi di Marta Dassù, direttore di Aspenia. I presidenti degli Stati Uniti incontrano il Dalai Lama spesso. E la Cina protesta regolarmente. Si potrebbe concludere quindi che l'incontro di oggi fra Barack Obama e il leader spirituale del popolo tibetano è un non evento, ma invece un evento lo è, per ragioni che riguardano in realtà i rapporti di forza fra gli Stati Uniti e la Cina. Vanno capiti tre punti essenziali. Primo, la politica cinese di Obama è in seria difficoltà. L'idea iniziale era di costruire un rapporto forte, strategico con Pechino, il famoso G2. Obama ha fatto varie concessioni alla Cina, fra cui proprio il rinvio dell'incontro con il Dalai Lama, ma non ha ottenuto quasi niente, né in campo monetario, né a Copenaghen sull'ambiente, né oggi sulle sanzioni all'Iran. L'incontro di oggi chiude simbolicamente la fase del sorriso e insieme alla vendita di nuove armi a Taiwan segnala che l'America non è più disponibile a concessioni gratis. Secondo punto, la leadership cinese ha letto nella crisi finanziaria la prova del declino dell'America e ha colto nelle aperture di Obama solo un segno di debolezza. Pechino sta quindi giocando al rialzo su una linea nazionalista e di controllo interno che l'Occidente non si aspettava. Il caso Google è stato un richiamo alla realtà. La Cina soffre di nuovo di un antico complesso, un eccesso di fiducia in sé. Terzo punto, in un'America già elettorale e con una forte disoccupazione il rischio vero è il protezionismo. La Cina lo sa, ma deve anche ricordarselo. Così come deve ricordarsi che il futuro del dollaro è diventato anche un suo problema. Pechino potrà non amare Obama, ma dovrà cooperare con l'America. Era dedicato all'arresto del giornalista della BBC Ray Gosling, che davanti alle telecamere ha confessato di aver aiutato a morire con il suo consenso il suo giovane amante malato terminale di AIDS. Il nostro sondaggio: voi condannate il suo gesto? I no sono stati il 73%, i sì il 27%. In chiusura lo sport, prima di tutto Vancouver. L'Italia si è messa al collo la quarta medaglia alle Olimpiadi con la terza medaglia di bronzo, arriva dal pattinaggio, la conquista è stata Arianna Fontana nei 500 metri short track, e poi il calcio con l'Europa League che si gioca stasera. Non chiamatela Europa di Serie B. Ai sedicesimi di finale della seconda competizione continentale in fondo si presentano sette squadre che in passato hanno alzato la Coppa dei Campioni. Il pedigree dell'Europa League, insomma, è più che dignitoso, come si augurava il presidente Platini, che ha rimodellato la vecchia UEFA ad immagine della Champions. Anche se i soldi in palio rispetto alla sorella maggiore sono di meno, non ci sono motivi per Roma e Juve per snobbare i loro impegni. In trasferta su due campi belli e difficili come Amsterdam ed Atene, non di certo la periferia dell'impero. E giallorossi cercano il 21 unesimo risultato utile consecutivo in casa del Panathinaikos senza Totti e Toni, ma con De Rossi e Vucinic in gran spolvero, due che hanno già trascinato spesso la Roma in questa lunga striscia vincente. Alla Juve la sfida con l'Ajax fa tornare in mente una lontana finale di Coppa Campioni. Il ritorno alla vittoria in campionato impone un immediato bis per non disperdere il patrimonio di fiducia dopo il 3-2 sul Genoa. Zaccheroni continua il lento recupero degli infortunati. Questa sera almeno in panchina si rivedranno Trezeguet e Camoranesi. Massimo Di Scienza, GR24, Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.